Salva Danaio di Deborah Rosciani. I padroni di case mono o bifamiliari che intendessero approfittare di questa possibilità possono cominciare da oggi a chiamare i progettisti e a commissionargli il lavoro. Presidente del Consiglio, vabbè, scusate, in ogni caso il senso lo avete capito, è stato quanto ha detto ieri presentando l'accordo con le regioni relativamente al piano casa, chiamati progettisti, però insomma questo invito magari deve essere raccolto anche con un po' di prudenza, aspettate magari che la vostra regione deliberi in materia. In merito al piano casa, e comunque rispetto all'incertezza dei giorni scorsi c'è l'accordo con le regioni, quali sono a questo punto i prossimi passi per concretizzare questo piano? Il Consiglio dei Ministri varerà un decreto la prossima settimana con le cosiddette semplificazioni di competenza statale, poi toccherà alle regioni entro 90 giorni esprimersi sulle norme che disciplineranno l'ampliamento delle unità abitative. Oggi allora torniamo su questo provvedimento per darvi qualche indicazione un po' più precisa rispetto alla settimana scorsa e anche qualche indicazione pratica di comportamento qualora stiate progettando di allargare la vostra casa. Quando sarà possibile farlo? Quali sono per la precisione le tipologie di immobile interessate? Quali pratiche bisognerà fare per richiedere l'ampliamento? Con noi questa mattina per rispondere a tutte queste domande, ma anche alle vostre, Cristiano Dell'Oste e Saverio Fossati, colleghi del Sole 24 Ore, e Antonio Nucera dell'Ufficio Studi di Confedilizia. 800 24 00 24, come sempre il numero verde per i vostri interventi, 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. Il quadro di borsa stamattina, il mercato sta letteralmente volando, tra l'altro nonostante i disappunti e i disaccordi fra i vari leader internazionali che stanno partecipando al G20, il mercato in realtà scommette su qualche probabile risoluzione concreta e positiva da questo vertice. Infatti gli indici hanno letteralmente spiccato il volo da questa mattina: Francoforte più 4,78, Parigi più 4,18, Londra più 3,27, S&P MIBA Piazza Affari più 3,69%, MIBTEL più 3,38%, Fiat più 13,47%, il lingotto ritrova i 6 euro. Il gruppo beneficia delle buone indicazioni che sono arrivate ieri sera dai dati sulle immatricolazioni nel nostro paese per il mese di marzo, e poi c'è anche l'intesa con Chrysler in vista, c'è una stretta, insomma entro 30 giorni dovrà essere definita secondo quanto ha chiesto esplicitamente per il salvataggio della casa automobilistica americana il presidente Barack Obama. Autogrill più 7,73, Banco Popolare più 6,40, Unicredit più 5,61, STM Geox più 5, Impregilo più 4,5%. Fino a poco fa non c'era nessun titolo negativo a Piazza Affari. Adesso c'è solo Ansaldo, ma perde appena lo 0,16%, mentre abbiamo qualche altro titolo che è un po' debole, ma insomma guadagna meno degli altri. Comunque c'è il segno più. Snam Rete Gas più 0,06, Terna più 0,85, Parmalat più 0,90%. Abbiamo naturalmente anche gli occhi puntati sulla Banca Centrale Europea, sulla riunione che è già cominciata a Francoforte e la decisione sui tassi di interesse che verrà comunicata alle 13.45 come sempre, e ci sarà un'altra probabile riduzione del costo del denaro nell'Eurozona. I tassi di interesse è una decisione che sembra scontata dal mercato, dovrebbero essere portati all'1%, ma insomma lo vedremo solamente tra un'ora e mezza, tra un'ora e 40 minuti circa. Adesso lasciamo i mercati e ritorniamo al piano casa. Governo e regioni hanno raggiunto l'accordo sul piano casa. Entro 10 giorni sarà pronto il decreto legge e nei 3 mesi successivi dovranno essere approvate le leggi regionali a disciplina degli interventi. Gli ampliamenti del 20% riguarderanno edifici uni o bifamiliari o comunque di volumetria non superiore a 1000 metri cubi. Ampliamenti fino al 35% sono previsti invece in caso di demolizione e ricostruzione, purché volta al miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica con utilizzo di fonti energetiche rinnovabili o effettuata secondo criteri di sostenibilità ambientale. L'ampliamento non potrà comunque superare il limite di 200 metri cubi aggiuntivi. Altri limiti sono imposti dai vincoli di legge sulle aree gravate da inedificabilità assoluta, sugli immobili abusivi e quelli situati nei centri storici. Le regioni possono tuttavia stabilire limiti più restrittivi. A differenza di quanto era stato previsto in un primo momento, il provvedimento riguarderebbe solo gli edifici a destinazione residenziale, escludendo quindi gli edifici commerciali e industriali. Inoltre, scompare la possibilità di cambiare la destinazione d'uso dell'immobile. Per iniziare i lavori ci sarà tempo 18 mesi dall'entrata in vigore delle leggi regionali, a meno di previsioni diverse degli enti locali. Infine, governo e regioni si sono impegnati anche sul fronte degli affitti, di cui si era a lungo parlato, senza però giungere ad un accordo. Dovrebbe essere creato un fondo per venire incontro alle famiglie che si trovano in condizione di disagio economico e hanno difficoltà a pagare il canone di locazione mensile. 800 24 00 24. Io ringrazio Saverio Fossati, il collega del Sole, che diceva la scheda era perfetta, pertanto non abbiamo nient'altro da aggiungere, altro che se ne abbiamo da aggiungere, perché poi noi abbiamo dato i criteri generali, insomma, di questa nuova normativa che ci riguarderà, che riguarderà molte delle famiglie italiane per 18 mesi, perché poi anche questo forse è un aspetto che non è ben chiaro, non è che da qui in avanti poi chiunque vorrà ampliare la propria casa avrà questo nuovo criterio per poterlo fare. Bisognerà anche poi stabilire da quando partiranno questi fondi di 18 mesi. Anche questo sarà un nodo che speriamo di sciogliere questa mattina. Saverio l'ho già salutato, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a Cristiano Dell'Oste. Buongiorno a tutti. E buongiorno ad Antonio Nucera, ufficio studi di Confedilizia. Dottor Nucera, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, intanto cominciamo proprio con lei. Chiariamo subito, condomini fuori dalla nuova normativa. Guardi, in proposito bisogna chiarire un aspetto, mi spiego meglio. Già la bozza di decreto, quella che circolava nei giorni scorsi e prima di questo accordo, aveva viceversa previsto che i condomini vi rientrassero, ovvero non specificava alcuna distinzione tra unità o mono o bifamiliari, conseguentemente potevano rientrarvi senz'altro anche i condomini. Questo aveva fatto sorgere anche diversi problemi, ipotesi di sopraelevazioni selvagge o di pericolo veranda, cioè mi riferisco alla possibilità di chiusura del proprio balcone, quale nei condomini è l'ipotesi più probabile nel momento in cui si voglia ampliare la propria abitazione. Sul quale avevo già io stessa riposto qualche speranza, dottor Nucera. Anche perché diversamente, insomma, la vedo più difficile incorporare una parte del pianerottolo, insomma, quindi nei condomini ci sono limitate possibilità di movimento, quindi la soluzione più probabile era quella di appunto allargarsi sulla propria terrazza facendo una struttura magari metallica in vetro, consentendo così di creare un altro volume. Il problema però è che non si considerava che le norme del codice civile, in particolare quelle che disciplinano il condominio, ma in generale anche quelle in tema di distanza, eccetera, pongono dei limiti talmente stringenti con riferimento a eventuali costruzioni, che di fatto sin da quando, anche quando questo cosiddetto piano casa, che poi adesso denominato piano famiglia più che altro, più che piano casa, si applicava più che altro alle ville e alle villette, come si era già iniziato a sostenere, proprio perché bisognava rispettare, in proposito, prima di tutto il decoro architettonico del fabbricato, e lei mi insegna che una costruzione di una veranda sulla facciata di un condominio, certo, potrebbe essere sicuramente lesiva del decoro architettonico. Ecco, comunque in termini generali, dottor Nucera, diciamo che la questione dei condomini non potrà essere di disciplina regionale. L'intesa parla, fa riferimento oltre a unità, edifici residenziali, uni e bifamiliari, anche facendo, diciamo, un inciso, o comunque di volumetria non superiore a 1000 metri quadri, i quali sono classici palazzetti di 4-5 appartamenti, che in sé è un condominio, quindi lì bisognerà verificare effettivamente, perché anche in questo caso mi pare, a mio avviso, che i condomini vi rientrano, però di fatto, anche se vi rientrassero, con le limitazioni di cui ci siamo detti prima, per cui le stringenti riferimento anche al codice e anche al regolamento di condominio, che se di origine contrattuale non può essere derogato se non all'unanimità, difficilmente questi interventi potrebbero interessare edifici diversi appunto dagli edifici mono o bifamiliari. Insomma, è un percorso normativo che tra quello che delibererà nei prossimi giorni il governo con decreto legge e quello che poi delibereranno le regioni dovrà essere seguito con una certa attenzione. Allora, torniamo proprio agli prossimi step, ai prossimi passi che dovranno essere fatti. Dicevamo prima, non so chi mi vuole aiutare fra Cristiano e Saverio, che il Consiglio dei Ministri deve varare questo decreto la prossima settimana per le cosiddette semplificazioni di competenza statale. Che cosa vuol dire, Saverio? Diciamo Se vi ricordate, il Sole 24 Ore nelle settimane scorse aveva fatto delle anticipazioni su quello che era stata la prima bozza di decreto legge che girava, che in sostanza era divisa in due parti. Una parte che è molto simile a questa contenuto nell'accordo regionale, cioè l'ampliamento di volumetria e la possibilità di demolizione e ricostruzione. E l'altra parte era un intervento abbastanza radicale sul codice testo unico edilizia e sul codice ambientale. Era un intervento di semplificazione che aveva suscitato parecchie polemiche perché metteva in un angolo il controllo da parte delle sovrintendenze, soprattutto per questo, e poi eliminava in un certo senso il cosiddetto permesso di costruire, sì, cioè la buona vecchia licenza o concessione edilizia, a vantaggio di una dichiarazione di inizio attività che diventava una certificazione asseverata, in sostanza una perizia giurata da parte firmata dal professionista. Qualcosa di molto molto simile alla dichiarazione di inizio attività, che in sostanza è una dichiarazione firmata dal professionista che si assume la responsabilità di dire che ciò che sta per costruire è perfettamente conforme alla normativa urbanistica nazionale e comunale. Quindi diventava una sorta di superdia. Ora, la scomparsa di quella prima bozza però non ha fatto scomparire questo principio, che comunque nelle bozze che poi sono successivamente girate è riemerso, per cui la semplificazione consiste da una parte nel fatto che scompare la licenza edilizia e quindi la trattazione della pratica diventa infinitamente più rapida, e dalla parte in una elencazione abbastanza lunga di lavori che possono essere compresi nel concetto di DIA, ma soprattutto addirittura possono non essere soggetti ad alcun tipo di autorizzazione preventiva, mentre invece prima comunemente erano considerati soggetti a quantomeno a dichiarazione di inizio attività. Sono lavori effettivamente abbastanza semplici, scavi o piccoli ampliamenti che di fatto non richiedevano quasi neanche un controllo comunale. Però effettivamente si tratta di una razionalizzazione. Questo elenco è però assolutamente aleatorio, cioè quasi inutile parlarne perché cambia ogni mezza giornata, cambia. Ci sembra assolutamente una considerazione di buon senso. Da lì in avanti, invece, una volta che il governo avrà emanato il suo decreto, le regioni avranno 90 giorni di tempo per esprimersi sulle norme che poi andranno a disciplinare l'ampliamento delle unità abitative. Facevamo riferimento prima a questa durata complessiva del piano casa, poi il dottore Nucera ci ha detto in realtà adesso è stato ridefinito piano famiglia, ma insomma che durerà 18 mesi. A partire da quando si è capito, da quando avverrà la delibera e la regolamentazione da parte delle regioni? Cristiano Dell'Oste. Allora, diciamo che noi abbiamo un doppio termine per iniziare. Il protocollo è stato firmato ieri, l'intesa, quindi ci sono 10 giorni entro i quali arriverà il decreto legge che interviene sulle regole nazionali e poi 90 giorni entro i quali le regioni si sono impegnate ad adottare le proprie normative. Tra l'altro c'era stamattina anche su Corriere della Sera la questione della Lombardia, il presidente Formigone ha detto noi abbiamo già un piano casa e intendiamo adottare questo, per cui magari ci saranno delle regioni che avranno la possibilità di muoversi molto più velocemente rispetto ad altre. Si può fare anche il caso del Veneto che è stato un po' l'apripista in questo. C'è un disegno di legge che è stato approvato dalla giunta regionale Veneto nelle scorse settimane, addirittura prima che il governo intervenisse con la propria ipotesi di piano casa, e quello potrebbe essere un altro elemento. Però per stare ai tempi, dicevamo, quindi ci sono questi 90 giorni entro i quali le regioni si sono impegnate ad adottare le proprie leggi, poi a partire dall'entrata in vigore delle leggi regionali ci saranno 18 mesi entro i quali i proprietari di abitazioni potranno decidere di effettuare gli interventi così come previsto. Peraltro è bene anche dire che noi adesso stiamo ragionando in termini di aumento del 20%, demolizione e ricostruzione con aumento del 35%. Ecco, queste sono indicazioni che il governo ha dato e che le regioni hanno accettato, ma che sono obiettivi ai quali si legge nel protocollo, le leggi regionali si ispirano preferibilmente. Quindi vuol dire che le regioni potranno anche decidere di prevedere ulteriori adottare forme di incentivi, esatto, insomma non è detto che sia esattamente questo. E tra l'altro un'ultima cosa che si può dire, proprio questa mattina il ministro Fitto diceva a me piacerebbe che le regioni facessero un po' come il Veneto ed estendessero la possibilità di fare gli ampliamenti e le demolizioni agli edifici anche non residenziali, quindi gli uffici, i capannoni e così via, insomma, quindi anche questo è un tema. Ecco, un'ultima cosa prima di cominciare a sentire i nostri ascoltatori, perché vedo che al solito su questi argomenti c'è una grande attenzione e a maggior ragione date le novità realtà che sono arrivate ieri, stamattina i centralini cominciano ad essere già infuocati. Volevo rivolgere un'altra raccomandazione ai nostri ascoltatori, e sempre grazie alla collaborazione questa mattina di Antonio Nucera di Confedilizia. Io così ho dato un'occhiata al vostro sito e ho visto che vi siete subito preoccupati di esprimere delle raccomandazioni molto chiare ai proprietari, che utilizzino, avete detto, la normativa in maniera corretta, non iniziando attività edilizie che poi non trovassero conferma nella normativa regionale solo perché magari sui giornali in questi giorni si legge di queste nuove opportunità. Però bisogna fare attenzione, insomma. Esattamente, proprio perché, come abbiamo sentito prima dallo studio, c'è il discorso che le norme non sono ancora operative, non si tratta di un decreto, ma si tratta semplicemente di un'intesa che dovrà essere recepita dalle regioni e dalle amministrazioni locali. Bisognerà vedere in che modo verrà recepita, nei tempi in cui verrà recepita, per cui in questo momento avviare eventuali progetti di ristrutturazione, avviare eventuali domande, cose di questo genere non troverebbero accoglimento per il semplice fatto che la normativa non è stata ancora applicata. Sì, bisognerà attendere la disciplina regionale. Immagino che in linea di principio possiamo avere la, come dire, capacità di capire se abitiamo in un edificio che ha la possibilità di sfruttare queste opportunità. Detto questo, non è che da domani possiamo, come indicava il Presidente del Consiglio, chiamare un progettista e fargli fare seduta stante sì, certo, si può sempre fare un preventivo, però in ogni caso è sempre bene che la regione di riferimento legiferi, e qui abbiamo ancora almeno 3 mesi di tempo. In ogni caso sentiamo un po' i nostri ascoltatori, cominciando da Gregorio da Firenze. Gregorio, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, il mio problema è questo: io vivo in un villino bifamiliare di primo Novecento, io occupo il piano superiore e sono proprietario della terrazza. Volevo sapere se potevo sopraelevare e, in caso positivo, su che cubatura, cioè sulla cubatura del mio appartamento o dell'intero villino. Allora Gregorio, si fermi là, intanto ovviamente bisognerà vedere anche un po' la regione. Siamo a Firenze, un edificio che ha determinate caratteristiche. Saverio Fossati, allora il nostro ascoltatore questa opportunità. Sì, è un villino, quindi il discorso del condominiale, del decoro architettonico e della stabilità dei problemi statici del fabbricato possono comunque sussistere, perché quel villino in ogni caso è un condominio, perché ci sono due proprietari di 2 unità immobiliari diverse, quindi di fatto i problemi esistono comunque. Secondo aspetto, certo che può sopraelevare, lo poteva fare anche prima, però prima probabilmente non avrebbe avuto il permesso di costruire perché aveva già esaurito la volumetria, e adesso invece ce l'ha in automatico, purché non superi i famosi 200 in teoria quanta cubi. Sopraelevazione è possibile fare? Quanto è possibile ampliare verso l'alto? Non so quanto è grande il suo appartamento, comunque. Cosa stabilisce la legge? Insomma, quali sono i limiti massimi? Un massimo di 200 metri cubi, quindi abbastanza, no? Che a Croce sono 70 metri quadrati, se non vado errato, quindi 70 metri, 80 metri quadrati, dipende dall'altezza che è prevista nel regolamento comunale. Quindi probabilmente non potrà, se il suo appartamento è abbastanza grande, non potrà, diciamo, sopraelevarsi totalmente, però potrà fare di fatto costruire un altro appartamento non piccolino, ecco. Però rimangono dei problemi col vicino del piano di sotto, che è un condomino. Dal mio punto di vista, ma credo che la cosa sia universalmente accettata, se un edificio celoterra c'è più di un'unità immobiliare, quello è un condominio, quindi poi bisogna mettersi d'accordo. Dottor Nucera, voleva aggiungere qualcos'altro rispetto a questo caso? Confermo nel momento in cui la proprietà rimane da unica, diventa anche di solo 2 persone, si costituisce un classico che la giurisprudenza definisce condominio minimo, e che anche in questo caso bisogna rispettare per quanto possibili le norme del regolamento del codice civile. Quindi teoricamente, insomma, la persona che abita di sotto potrebbe opporsi a questo tipo di lavoro, e tutto ciò poi non attiene ovviamente al piano casa, alla disciplina. Ma ripeto, il piano casa semplifica, oppure, o meglio, mira a semplificare negli intenti le procedure autorizzative, eccetera, però le norme che disciplinano i diritti dei terzi a non essere lesi da eventuali atti, diciamo, costruzioni o comunque opere che potrebbero recare loro qualche danno, quelli rimangono, quindi conseguentemente bisogna regolarsi con molta cautela. Quindi insomma la prima cosa che il nostro ascoltatore deve fare è magari chiarire i rapporti con la persona che abita sotto di lui, magari un altro familiare, non lo sappiamo, insomma. In ogni caso andiamo avanti, un'altra domanda per poi rispondere magari nella seconda parte di Salva Danaio. Luisa da Roma, buongiorno. Buongiorno. Io ho questa domanda. Dunque, si è parlato di villetta schiera mono e bifamiliari. Sì. Io al mare ho una la villetta pur di questa schiera, però è quadrifamiliare. Sì. Voleva sapere se era possibile in ogni caso, sì, poter intervenire poi, con queste... Sì, sì, un'altra domanda. Queste villette a schiera quadrifamiliari che abbiamo comprato tutte dal costruttore direttamente, c'è una tettoina che, senza neanche saperlo, comunque era abusiva, una tettoina che dà sul giardino. E volevo sapere anche se, avendo questa tettoina, è possibile farlo, questo ampliamento, o no. Cioè lei praticamente l'ha comprata dal costruttore in condizioni non completamente trasparenti, mi sta dicendo? Lui, sì, no, tutti quanti quelli della villetta a schiera. Praticamente c'è una tettoina di queste di coccio, di battoni, insomma, che dà sul giardino, e quella era abusiva. Come la discipliniamo questa questione? Saverio Fossati, Il Sole 24 Ore. No, intanto la villetta era quadrifamiliare, quindi sì, di fatto è un condominio, quindi lei avrà tutti i problemi che ha in condominio, quindi decoro architettonico, sicurezza statica. Allora, siccome, come dicevamo, probabilmente si potrà intervenire se gli appartamenti nel loro complesso più o meno non superano i 70 metri quadrati ciascuno, perché alla fine si rimane entro il limite dei 1000 metri cubi. La tettoia è stata costruita abusivamente dal costruttore, che quindi aveva, e quindi l'edificio aveva un suo vizio, però è abbastanza irrazionale chiamare in causa il costruttore, il quale per fare le cose regolarmente dovrebbe abbattere la tettoia e al massimo restituire il prezzo pagato per questa ipotetica tettoia. È chiaro che si può utilizzare queste disposizioni nuove per, in sostanza, regolarizzare la tettoia. Possiamo dire che un pochino servono anche a questo? Beh, è una forzatura È una forzatura in questo senso. L'intento della legge è favorire le nuove edificazioni e gli ampliamenti delle preesistenti, quindi lavori in muratura nuovi. Poi è evidente, come è sempre avvenuto in queste circostanze, come è già avvenuto nel 2003 e nel 94 e nell'85 nei condoni edilizi, diciamola pure questa parolaccia perché se ne dicono tante, no? È evidente che molti che hanno già commesso un abuso o lo completeranno, come è il caso della signora che erigerà un muro intorno alla sua famosa tettoietta, quindi facendola diventare una stanzetta, oppure diranno che lo hanno realizzato dopo l'entrata in vigore delle norme, facendosi fare fatture fittizie, eccetera. Siamo assolutamente al di fuori di quello che è lo spirito della legge, ma siamo assolutamente all'interno di quello che sono state le conseguenze delle altre disposizioni abbastanza analoghe degli anni passati. Inutile girare intorno alla questione. Metà delle persone faranno ampliamenti, quindi lavori nuovi, e metà regolarizzeranno piccoli abusi preesistenti che magari avrebbero potuto realizzare adesso, intendiamoci, legittimamente, quindi non volendo, però di fatto in molti casi si tratterà di una sanatoria posto. Allora sentiamo cosa ne pensa anche Confedilizia Antonio Nucera. Dottor Nucera, le metto insieme a questo caso una considerazione di un altro ascoltatore che vuole che sgombriamo il campo ancora una volta dall'equivoco sulla questione dei condomini. Vuole sapere se in un condominio di villetta schiera c'è la possibilità di usufruire del piano oppure no. È Paolo che ci scrive. Dottore Nucera, con il rischio di ripeterci. Lo rifacciamo perché evidentemente hanno perso la prima parte della trasmissione, ma è evidentemente che questa forse è la questione che coglie un po' più. No, ma è giusto, comprendo. L'interesse. Con il rischio di ripeterci, il concetto è questo. Premesso che parliamo sempre di un accordo e che dobbiamo attendere le norme legge, le norme legislative che regolamentino la materia nelle singole regioni, l'intesa parla di edifici residenziali uni e bifamiliari, e in questo caso per il nostro ascoltatore non rientrerebbe il caso di suo interesse, viceversa aggiunge però la stessa intesa che gli ampliamenti possono essere anche realizzati su edifici residenziali di volumetria non superiore a 1000 metri quadri, per cui se nel caso della villetta schiera la somma dei vari appartamenti, delle varie unità immobiliari rientra nei 1000 metri cubi, in questo 1000 metri cubi, in questo caso senz'altro potrà usufruire almeno da quello che si può intendere dall'intesa, potrà usufruire di queste novità, insomma. Allora, sì, stiamo continuando a parlare peraltro della... Sì, Saverio. No, solo una piccola precisazione. Forse il nostro ascoltatore alludeva, può darsi di no, ma è una situazione frequente, a una situazione di condominio di villetta schiera, nel senso che le villette schiere magari sono piccole unità immobiliari distanziate mono o bifamiliari distanziate e hanno in condominio magari la strada, il giardino o un impianto pubblica, di riscaldamento, sì, anche se raro, alcune parti. Quelle sono i condomini, giardini, ma naturalmente è un condominio che riguarda solo quegli aspetti, quindi non si tratta di un condominio, per così dire, che influisca su quel famoso limite dei 1000 metri cubi. Quindi trattato da questo punto di vista, eventualmente fa in modo che Paolo possa comunque cadere nel diritto di poter utilizzare queste agevolazioni? Beh, i beni comuni, diciamo così, in quel caso, nel caso del condominio delle Villette Schiere, riguardano non appunto il concetto del condominio classico, quindi tetto, pareti esterne, eccetera, eccetera, ma riguardano solamente alcuni accessori. Loro sono in condominio solamente limitatamente a quello, quindi in realtà si tratta di tanti piccoli villette o addirittura mini condomini minimi di due famiglie, che hanno in più un vincolo condominiale relativamente, o addirittura supercondominiale, se vogliamo essere più precisi, relativamente ad alcuni beni comuni, che però non hanno, diciamo, un riflesso diretto nel concetto espressi dalla legge. Allora, insomma, il condominio, la costruzione di una nuova stanza, abbiamo però anche l'opportunità, secondo quanto indica l'accordo che è stato raggiunto ieri tra governo e regioni, riguarda anche interventi di ampliamento che possono coinvolgere spazi già esistenti. Allora, su questo punto volevo sentire Massimiliano da Massa con la sua domanda, perché credo che sia interessato a risistemare una cantina. Pronto? Massimiliano, buongiorno. Buongiorno. Io voglio sapere, un condominio che ha degli scantinati, sì, cioè un padrone di un appartamento in un condominio che ha uno scantinato, sì, invece di ingrandire l'appartamento, usufruire, fare un cambio di destinazione, l'uso dello scantinato, sì, è possibile farlo? Ecco. Allora, tra l'altro mi sembra che proprio dall'accordo che è stato siglato ieri ci sia stato il no al cambio di destinazione d'uso, ma non so se questo rientra nell'ambito della domanda del nostro ascoltatore. Cristiano, vuoi intervenire? Ma diciamo che l'accordo siglato ieri non menziona più il cambio di destinazione d'uso, quindi che non ci fosse più, in questo senso è stato escluso. Poi però diciamo che si tratta, poi essendo anche questa materia, come dire, regionale, andiamo poi anche a vedere cosa decideranno le regioni. Ad ogni buon conto, la domanda dell'ascoltatore si scontra di nuovo con il limite che bisogna un po' imprimersi nella mente, perché in realtà fino a pochi giorni fa si è parlato anche dei condomini, di questi 1000 metri cubi. Quindi se il condominio nel quale vive il nostro ascoltatore ha una volumetria superiore, quindi diciamo non è una piccola palazzina di pochi appartamenti, insomma di 4 più appartamenti, insomma, quindi comunque diciamo se è oltre i 1000 metri cubi, di fatto la possibilità dell'ampliamento è esclusa, quindi il discorso non entra più in gioco. Sì, c'è anche un altro aspetto piuttosto importante, cioè non è che si possano violare le norme sull'igiene, non è che si possa trasformare uno scantinato, cioè una cantina senza finestre, in una unità abitativa. Questo, in origine sembra, cioè, una cantina rimane, poi possiamo mettere la carta da parati a fiori. Mi sembra impossibile che una regione, per quanto disgraziata, possa approvare nella legge regionale futura una modifica che dica che si può abitare in una stanza senza finestre, perché questa è una cantina, nient'altro. Allora, tra l'altro noi non abbiamo ancora parlato neanche, come dire, degli ambiti territoriali in cui tutti questi interventi sarà possibile effettuarli. I centri storici, Cristiano Dell'Oste. Ecco, questo è un aspetto sul quale anche qui nel corso delle scorse settimane si sono viste diverse versioni. Diciamo che il punto fermo contenuto nell'intesa di ieri dice che sostanzialmente le leggi regionali potranno individuare delle zone in cui l'ampliamento, quindi o anche la demolizione e ricostruzione, saranno o esclusi o limitati. Quindi si può immaginare magari che in alcune aree il limite non sarà il 20 ma il 10%, ad esempio. E questo le regioni lo potranno fare tenendo presente alcuni aspetti, che sono la tutela dei beni culturali, le aree di pregio ambientale e paesaggistico, quindi anche le zone, per esempio, dei parchi naturali, su cui si era fatta polemica la scorsa settimana dopo la prima bozza che era circolata del governo. E in questo senso si potrà andare a definire anche i centri storici. Quindi diciamo, non c'è una menzione diretta dei centri storici, però è chiaro che se pensiamo a determinate realtà in cui il centro storico è un tessuto di valore, si cerca di mantenerlo in qualche modo coerente sotto il piano dell'edilizia, delle strutture, dei materiali utilizzati, è verosimile che le regioni decidano di introdurre dei limiti in queste aree. Proteggere al massimo queste aree, certo, certamente. Certo. Peraltro, solo una piccola aggiunta, l'intesa prevede anche la possibilità opposta, nel senso che in determinate zone, pensiamo magari a periferie degradate o aree in cui si vuole incentivare lo sviluppo, si possano invece prevedere incentivi e premi per avere ampliamenti, ma c'è da pensare soprattutto interventi di demolizione di vecchi palazzoni magari edificati negli anni del boom economico e del boom edilizio, quindi magari negli anni 60, e la loro ricostruzione secondo standard anche energetici più efficienti. 800 24 00 24, stanno arrivando anche tanti messaggi, come al solito purtroppo non riesco a leggerli, adesso magari ci provo nell'ultima parte di Salvadanaio. Volevo sentire un altro ascoltatore per poi ridare la parola a Confedilizia, anche se nel frattempo avremo anche i suggerimenti per chi è in viaggio. Santo da Udine, benvenuto. Sì, buongiorno. Io volevo chiedere ai suoi esperti, sì, nel caso di ristrutturazione di un vecchio edificio e riconversione energetica dello stesso, sì, siccome la legge sulla riconversione energetica parla di ricostruzione fedele dell'edificio, posso, sì, approfittare dell'aumento del 35% o le due cose cozzano? Per ottenere anche l'incentivo fiscale del 55%, sì, quello, sul risparmio energetico. Quello, posso, quello, sì, posso averlo, ma posso avere anche il 35% di ampliamento? Di ampliamento della, oppure no? della volumetria. Allora, chi vuole rispondere? Andiamo a Nucera. Antonio Nucera, Confedilizia. Ah, qui bisognerà vedere in verità come verrà applicato l'accordo nelle singole regioni, perché effettivamente in questo caso si pongono due normative in contrasto. Presumibilmente, siccome l'accordo parla proprio che l'intervento di ricostruzione, come quello che parla l'ascoltatore, deve essere effettuato tramite l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e cose di questo genere, senz'altro bisognerà coordinare le due normative. Allo Stato non si può ancora dare una risposta, bisogna prima vedere quello che, diciamo, come svilupperà. Quindi la è possibile, per esempio, che il decreto della prossima settimana, oltre alle questioni di semplificazione di cui abbiamo parlato prima, vada magari a così fare una precisazione su questo punto, se i due interventi sono compatibili? Dottor Nucera, no? Guardi, nell'intesa viene data ampia possibilità al governo di muoversi in questo senso, anche perché, come sentivamo, erano state stralciate molte ipotesi in cui il governo doveva semplificare o meno, quindi staremo a vedere, insomma, quello che poi verrà deciso. È un po' presto per dirlo. È un po' prematuro, insomma. Eccoci ritrovati a Salvadanaio sul piano casa. Stiamo così commentando, interpretando insieme a voi quanto deliberato ieri in questo accordo tra governo e regioni, ma insomma mancano ancora diversi tasselli legislativi all'appello, pertanto è ancora molto prematuro fare anche tante considerazioni su lavori possibili. Sicuramente abbiamo una normativa adesso, diciamo un protocollo d'intesa dal quale muoverà il governo per varare il suo decreto la prossima settimana, e da questo poi in avanti ci saranno i provvedimenti regionali. In ogni caso, qualche cosa è possibile dirla con certezza, tante altre cose non ancora, ma noi, come abbiamo sempre fatto, seguiremo poi via via andando avanti il percorso di queste novità. E intanto andiamo a toglierci qualche curiosità con i nostri ascoltatori, che ci raccontano anche quali interventi vorrebbero fare. Fabio da Latina, buongiorno. Sì, buongiorno, salve, mi sentite? La sento benissimo, Fabio, benvenuto. Buongiorno, salve. Le spiego, il mio dubbio è questo. Io, diciamo, approfittando della crisi, sto acquistando la mia prima casa tra 15 giorni. Perché approfittando della crisi, Fabio? Perché è riuscito a ottenere un bello sconto sul prezzo? Ottimo, ottimo. Benissimo, veramente bravo. Superiori, anche ascoltando i vostri consigli. Latina è molto costosa, Fabio, com'è la situazione? Diciamo che negli ultimi 7 anni i prezzi si sono volati tantissimo, come dappertutto. Sì, benissimo. Da 10 anni fa un appartamento di 45 metri quadri si poteva acquistare con 60 milioni, oggi siamo intorno ai 180 mila euro, 170 mila. Sì. Sì. Allora, io le spiego, praticamente sto acquistando una villetta un po' atipica, perché di fatto la superficie vivibile è di 40 metri quadri netti, sì, quindi è molto piccola come, sì, villa. Però ha un giardino, ha un terrazzo di sovrastante l'abitazione di 75 metri quadri. E lei, insomma, dice, visto che ho risparmiato tanto sul prezzo, questi soldi li investo subito per un ampliamento. Mi chiedevo se il fatto di avere il posto autocoperto, il giardino, il terrazzo di 75 metri quadri facesse coefficiente per ottenere questo famoso 20%, che altrimenti, facendo il 20% di 40 metri quadri, verrebbe quasi nulla, diciamo. Se invece queste superfici esterne facevano coefficiente in qualche modo. Penso proprio di sì, Fabio, a giudicare da come stanno annuendo i miei ospiti, almeno quelli che ho di fronte, e poi non so, Nucera al telefono. Saverio Fossati, cominciamo con te. No, molto brevemente, il problema è che l'accordo è abbastanza generico, cioè parla di volumetria. Esatto, infatti è quello. Nella volumetria certamente rientrano. Vabbè, ma anche una casa di 40 metri quadri, che volumetria potrà avere? Non ce l'avrà certo. No, ho detto, c'è il garage che sarà di altri 12, no? Immagino. Ecco, il problema è che è volumetria abitativa o volumetria in generale, perché se prendiamo anche la volumetria in generale, allora sono danneggiati quelli che hanno le ville un po' più grandicelle. Ma l'interpretazione più plausibile, secondo te, quale può essere? Io ritengo che si parli di volumetria abitativa. Ritengo, cioè mi sembra abbastanza logico, perché lo scopo è quello di ampliare le abitazioni. Poi le regioni, secondo me, saranno nella loro massima libertà e potranno sicuramente identificare diverse possibilità. Però stando a quello che si è sempre detto in questo mese e mezzo, volumetria è volumetria abitativa, quindi purtroppo sono i suoi famosi 40 metri quadrati, quindi occhio croce 120 metri cubi, insomma più di una decina di metri così, quadrati. A spanne comunque il piano casa che verrà approvato dalla Regione Lazio in ottemperanza a quanto è stato fissato ieri, definirà un po' meglio anche quello che il nostro ascoltatore immagino potrà fare, quindi darà una definizione chiara di volumetria abitativa piuttosto che generale. Di conseguenza conviene a Fabio, come a tutti gli altri che sono già invogliati a fare questo lavoro, conviene di aspettare. Sicuramente sono stimolati in questo momento quantomeno a mettere un po' la testa sull'argomento. Cristiano Dell'Oste. Sì, sì, vedevo proprio questa mattina, in realtà è intervenuto il governatore della Regione Lazio, quindi Piero Marrazzo, che diceva: Secondo le loro stime saranno circa 10.000 le abitazioni interessate da operazioni, e ribadiva insomma l'intenzione della regione di intervenire con una propria norma in merito. Quante invece c'è stata anche fatta una stima su quante potranno essere le abitazioni in tutto il territorio nazionale interessate agli interventi di questo tipo? Sì, guarda, le ultime cifre indicavano circa 9 milioni e mezzo, sì. Insomma tra i 9 milioni e i 9 milioni e mezzo di abitazioni mono e bifamiliari. Ora si tratta di capire se questo aumento ai 1000 metri cubi potrà magari allargare un pochino la platea. Ecco. Diciamo che quelle potenzialmente interessate naturalmente non sono tutte, se applichiamo. Ovviamente, certo, ovviamente. Saranno il 10. Non è detto che tutte le famiglie che ci abitano siano intenzionate ad ampliare la loro assolutamente. Casa. Chi è l'ascoltatore che sta aspettando da più tempo? Forse Fausto da Mantova. Fausto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo chiedere, l'ampliamento, cioè è vincolante il fatto di essere attaccato all'abitazione che ho già in pratica, o se magari potrei farlo anche staccato? Ah, quindi se ci deve essere, come dire, continuità tra l'abitazione e teoricamente la parte... Beh, diciamo che se c'è il principio della costruzione della famosa stanza in più, teoricamente deve essere attaccato. Però Antonio Nucera, andiamo a lei. La bozza di decreto, quella poi appunto che è sparita e a cui è seguito appunto poi dopo l'accordo con le regioni, era previsto... su questo specifico punto, che laddove non potesse realizzarsi l'ampliamento semplicemente allargando la propria abitazione, lo si poteva fare in una parte, diciamo, comunque di pertinenza della stessa abitazione, anche non aderente alla stessa. In questa intesa non vi è alcun riferimento a riguardo, ma non mi meraviglio di questo, perché ripeto, è un'intesa, come abbiamo detto più volte, generica, per cui poi viene lasciata alle regioni, sarà alle regioni prevederlo. Ritengo che sarà possibile, insomma, però nello spirito anche della legge, appunto, che consente, nello spirito di degli obiettivi che questa intesa persegue, bisognerà però, ripeto, sempre attendere quello che disciplinerà la specifica regione in cui l'immobile dell'ascoltatore è sito. Tra l'altro, come dire, l'ambito intorno al quale le regioni dovranno legiferare, per precisare meglio la materia, è un ambito molto ampio, perché credo che ogni regione dovrà chiarire anche con precisione, per esempio, quale documentazione si deve presentare per richiedere l'ampliamento. Questo almeno lo scrive stamattina proprio Il Sole. Cosa accadrebbe nel caso in cui la propria regione non legiferasse entro 90 giorni? Abbiamo fatto anche questa ipotesi, l'ha fatta stamattina il collega Giorgio Santilli sul Sole. Chi mi vuole rispondere? Ma mi pare però abbastanza improbabile, dice Il Sole, Cristiano Dell'Oste. Ma sì, diciamo, probabile o meno che sia, nell'accordo che è stato firmato ieri c'è un piccolo paragrafo in cui si fa riferimento, e si dice insomma che a questo punto saranno il governo da un lato e il presidente della giunta regionale, quindi il governatore di fatto della regione, a decidere insomma cosa fare. perché dovranno trovare, dice appunto la bozza, delle modalità procedurali per attuare l'accordo. E poi si fa riferimento, però non è un potere, diciamo, che il governo abbia in misura diretta, immediata, si fa riferimento alla possibilità di intervenire anche con un commissario che si occupi appunto di definire l'accordo. L'ipotesi verosimile è che se, insomma, intorno allo scadere dei 90 giorni la regione avesse avviato la legge magari fosse in discussione in consiglio regionale e non fosse ancora terminato l'iter, probabilmente si potrebbe avere, insomma, una piccola proroga per consentire il termine dell'iter piuttosto che nominare un commissario. Ci mancano pure i commissari, se l'obiettivo esatto è quello di ridare un po' di slancio e di fiato all'economia in questo momento. Già questi 3 mesi ci sembrano abbastanza, comunque è naturale che venga dato tempo alle regioni per disciplinare al meglio la questione, però insomma ci manca pure l'avvento dei commissari a gestire queste problematiche. L'ultima domanda la faccio fare a Fulvio da Genova, a cui chiedo di essere telegrafico e farò fare la risposta a Nucera, glielo preannuncio in modo tale, visto che è stato per la prima volta ospite di Salva Danai, così lo abbiamo accolto al meglio. Fulvio. Sì, pronti, buongiorno. Buongiorno. Grazie per l'opportunità e complimenti per la trasmissione, perché sono vada. Senta, io 3 anni fa ho iniziato la costruzione di una villetta e in base ai metri quadrati del terreno mi hanno dato da fare 758 metri cubi come volumetria, di volume. E per cui adesso volevo sapere, dato che mi sta scadendo la concessione edilizia il giorno 20 di aprile, volevo sapere se mi conviene dare appunto una proroga, chiedere una proroga per poter rientrare in questi famosi 90 giorni. Bella domanda, Fulvio. Nucera, che cosa gli consigliamo di fare? La situazione è tutta in incompleta evoluzione. Senz'altro, 20 aprile è un tempo un po' troppo rapido anche per noi. 20 aprile è un termine molto prossimo e con queste norme, con la semplificazione, scomparirebbe almeno da quello che si pensa il riferimento ovviamente alla licenza edilizia, si farebbe riferimento alla DIA, quindi bisogna sinceramente, per l'ascoltatore, attendiamo se la sua regione nei prossimi giorni, vediamo se subito già si attiva in questo senso e poi si può dare una risposta più definitiva. Infatti, cioè, Fulvio, magari guardi, ci scriva, cerchiamo un po' di rifletterci un po' meglio sul suo caso e entro il 20 aprile, evidentemente. Allora, grazie ad Antonio Nucera, Confedilizia, Cristiano Dell'Oste, Saverio Fossati del Sole 24 Ore sul piano casa. Non temete, perché tanto vi rimetto insieme e ci ritorniamo a più presto. Grazie a tutti, a domani.